Effetto Mondo. Easter is a very special day for me. And I see it's sort of in that timeline that I'm thinking about. And I say, wouldn't it be great to have all of the church? Niente, non possiamo farne a meno. Giulia Crivelli, ciao Giulia. Ciao. Sentire una volta comunque al giorno Trump è così, è così. Sì, è il, insomma, l'abbiamo visto ormai, forse ci supereranno, forse supereranno la Cina in queste tristissime statistiche di contagiati e di persone morte, ma al di là di quello sono un paese da 300 milioni di abitanti, sono la prima economia al mondo, quello che succede lì in questa pandemia è importantissimo, quindi non è né per accanirci contro Trump né perché ci piaccia particolarmente, però la dichiarazione di ieri come sempre sono importanti, perché ieri ha detto più volte, prima a Fox News, poi a un giornalista alla Casa Bianca ed è stato poi ripreso da tutti i telegiornali e lo ha ripetuto lui stesso in conferenza stampa, che sì, tutto sommato, per il giorno di Pasqua, che vuol dire 18 giorni da adesso, meno di 2 settimane, lui immagina le chiese piene. In questo momento naturalmente la maggior parte delle celebrazioni, funerali, matrimoni, sono sconsigliate, non ci sono divieti, tranne che a New York e in altre città proprio in lockdown, e quindi sì che la situazione potrebbe essere normale, ed è tornato su questa teoria che la cura non può essere peggiore del male. Su questo si esercitano tutti i giornali americani, anche perché c'è, visto che New York è la città e lo Stato, sta diventando lo Stato più colpito, ed è naturalmente simbolicamente, ma anche quasi la vediamo un po' come la capitale degli Stati Uniti, c'è uno scontro fortissimo in atto tra Cuomo, che è il governatore dello Stato di New York ed è del Partito Democratico, e Trump. Si sfidano non si sfidano direttamente, ma a colpa di tweet, dirette Facebook, conferenze stampa, apparizioni nei talk show. C'è la questione dei ventilatori, ma probabilmente, sottolinea per esempio il New York Times, in realtà certo c'è un'emergenza sanitaria, ma soprattutto, anche qui, impariamo da quello che sta succedendo in Italia. Certo che l'ideale sarebbe, con un colpo di bacchetta magica, avere decine di migliaia di posti in più in terapia intensiva. Il problema in realtà è fare i tamponi, e c'è il Washington Post e altri quotidiani di New York con le fotografie delle persone in fila al freddo, freddissimo, come qui da noi, per ore e ore e ore per avere un tampone a pagamento. Quindi insomma è una... Mi verrebbe da ridere facendo una battuta, che almeno loro a pagamento ce l'hanno. Qua in Italia abbiamo appena sentito un vigile del fuoco che neanche a pagamento è riuscito a farlo, cioè sì, poi ha dovuto pagare per fare il tampone. Scherzi a parte, mi collego a quello che stavi dicendo Giulia, e do anche un'informazione legata al lavoro che sta facendo il Sole 24 Ore. Il Lab 24 è il sito all'interno del sito del Sole 24 Ore, nel quale ci sono tutte le trattazioni statistiche di dati, come sempre infografiche bellissime. Si vede esattamente come la curva degli Stati Uniti sia quella allineata al centesimo caso con tutti gli altri paesi, quella che sta andando più verso l'alto rispetto per esempio all'Italia, che invece avrà una curva una campana molto, molto più piatta. Quindi è una curva impressionante quella lì. Certo, se vuoi ci spostiamo nel Regno Unito, dove non so se hai avuto modo di dirlo, però è arrivata una Bloomberg News, che tutti i siti dei quotidiani britannici riprendono, che il principe Carlo è positivo al coronavirus e non ha dei lievi sintomi, così dice lo scarnissimo comunicato di Buckingham Palace, e però ovviamente si è messo in quarantena. Di Camilla non si sa. Ma la notizia di oggi è l'appello fatto ieri da Boris Johnson e dal suo ministro della Salute. Your NHS needs you, cioè non lo zio Sam ha bisogno di te, ricorderete quei manifesti prima della Seconda Guerra Mondiale, ma in questo caso il sistema sanitario nazionale britannico ha bisogno di te. Si chiedono 250.000 volontari, perché continuano a crescere anche lì il numero di morti, e tu parlavi prima delle mascherine, il problema dell'equipaggiamento di protezione degli infermieri e dei medici è enorme nel Regno Unito, come negli Stati Uniti, come in Francia, dove minacciano addirittura lo sciopero e minacciano i medici, vogliono fare causa al governo per essersi fatto cogliere impreparato. E in Spagna addirittura ci sono questi tutorial, c'è la foto in prima pagina su El País, delle infermiere che insegnano come fare i camici con dei sacchi della spazzatura. Quindi insomma sono in prima linea, e lo vediamo anche in Italia, se cede quella prima linea e cominciano ad ammalarsi. Tra l'altro proprio nel Regno Unito si registrano proprio casi di, lì naturalmente c'è un sistema contrattuale completamente diverso, di infermiere e di alcuni medici che dicono: no, scusate, in queste condizioni noi non lavoriamo, preferiamo stare a casa perché mettiamo a rischio la nostra salute e quella delle nostre famiglie, oltre naturalmente a non poter curare al meglio i pazienti. Senti, la situazione sta diventando molto importante anche in Spagna, no? In Spagna anche qui la curva è molto impennata, c'è un'impennata di casi. Sì, Sanchez, come un po' tutti i capi di governo, sta in attesa, e sappiamo che ci potrebbero essere dei problemi a livello europeo con degli aiuti extra. Italia e Spagna siamo i paesi più colpiti, si sta muovendo anche in autonomia, e quindi per esempio ha chiesto, e quindi quasi certamente otterrà, una moratoria su tutti i debiti delle piccole e medie imprese e degli autonomi, e anche per quanto riguarda gli affitti, cioè tutte quelle spese vive che le persone, soprattutto che non hanno uno stipendio garantito alla fine del mese, ma che sono appunto lavorano come autonomi, non hanno circolante, ecco, per usare un termine più tecnico, e quindi degli interventi di emergenza. El País lo spiega bene: il meccanismo parlamentare potrebbe essere più semplice e più rapido di quanto si preannuncia invece qui da noi. L'altra notizia, e forse sì, potrebbe essere uno dei lati positivi di questa tremenda crisi, è che siccome la Catalogna sta superando Madrid come numero di contagiati, forse potrebbe essere davvero un momento di estrema solidarietà che supera tutte quelle spinte indipendentiste che aveva la Catalogna e che hanno lacerato la Spagna negli ultimi anni. Che altro, Giulia, dove ci porti? Una cosa curiosa, se vuoi, mi ha molto colpito sui quotidiani tedeschi, tutti pubblicano dei disegni di Asterix e Obelix, perché ieri è scomparso uno dei due creatori di questa serie dei fumetti. Goscinny era già morto, ieri è morto anche Uderzo, e il Tagesspiegel pubblica un disegno di Asterix che beve, per i più giovani forse non se lo ricordano, ma io e te sicuramente, beve da questa boccetta verde la sua pozione magica, e quindi Tagesspiegel auspica appunto una pozione magica contro il virus. È molto bella anche la prima pagina di Liberation, perché Obelix, che dei due era quello molto molto più grande, quello che faceva i lavori di forza, porta sulle sue spalle il coronavirus, e c'è il cagnolino fantastico Idefix, un piccolo cane per un grande uomo Obelix, che scorta Obelix in questo portarsi il virus sulle spalle. E poi naturalmente su tutti i giornali francesi c'è questa notizia. Abbiamo pochi secondi, però avevi selezionato notizie anche dal mondo arabo, dai quotidiani arabi, però davvero in pochissimi secondi. Sì, non so se possiamo sentire questo audio, perché l'audio no, non credo. No, diciamo che tutti i quotidiani arabi puntano cercano di portare attenzione sul fatto che tutte le persone palestinesi, sì, che dalla Palestina vanno in Israele per lavorare, spesso in nero, in questo momento hanno le frontiere tecnicamente chiuse e non hanno un permesso di lavoro da mostrare, perché appunto lavorano in nero. Il risultato è che passano il confine in altri modi, mettendo a rischio la loro salute, la salute dei familiari quando tornano a casa, e anche quella delle persone con cui lavorano. Grazie Giulia anche per questa notizia. È tutto per oggi, Effetto Giorno, con Paolo Colleoni in regia, Luca Cremonese in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata. Ciao.